I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Arriva un dato deludente per la produzione industriale che a marzo, come ha segnalato l'Istat, è rimasta ferma al palo dopo la flessione già registrata a febbraio. Un segnale preoccupante anche perché le aspettative erano invece orientate a una piccola crescita dell'output industriale. E non può essere neppure una consolazione il fatto che lo stesso indicatore, appunto la produzione industriale, abbia registrato sempre a marzo in Germania e in Francia un risultato ancor più debole del nostro, con un calo dell'1,3% a Berlino e dello 0,3% a Parigi. Tornando all'Italia, però, bisogna dire che anche la variazione annua ha mostrato un rallentamento della produzione, un rallentamento che ha l'effetto di raffreddare i progressi fatti dall'inizio dell'anno. In ogni caso, la variazione annua mostra un incremento dello 0,5%. Che cosa dice questa fotografia scattata dall'Istat? Beh, dice che la frenata di marzo è legata al rallentamento del settore dell'automotive, la produzione di mezzi di trasporto che per molti mesi aveva trainato la produzione industriale. I dati più in generale dicono che la nostra economia continua ad attraversare una fase di debolezza e dice anche che se le cose proseguono in questo modo sarà difficile raggiungere il target del governo di crescita del PIL superiore all'1%. Non ci resta quindi che attendere i dati di aprile e sperare che siano confermate le stime del Centro Studi Confindustria, che vede la produzione di nuovo in crescita di qualche decimale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Le decisioni della Commissione europea sul rispetto del patto di stabilità da parte dei singoli stati sono attese tra una settimana. La data non è confermata ufficialmente, ma sembra che per mercoledì prossimo verrà finalmente formulato il giudizio sulla compatibilità dei conti pubblici nel 2016. Per l'Italia si tratta ovviamente di un verdetto molto atteso, perché come sappiamo nella nostra legge di stabilità sono state utilizzate clausole di flessibilità di bilancio e ora la Commissione deve decidere se accettare questo impianto oppure se aprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Ricordiamo che la flessibilità nella nostra legge di stabilità è molto significativa e vale lo 0,8% del PIL. Che cosa accadrà? È molto probabile che la Commissione formulerà alcune raccomandazioni al nostro Paese per chiedere maggiore impegno nell'attuazione delle riforme, ma nessuno si aspetta l'apertura di una procedura di infrazione. Come sappiamo, le difficoltà maggiori riguardano il nostro debito pubblico, anche a causa di previsioni divergenti tra il nostro governo, che stima il debito in calo di qualche punto percentuale già nel 2016, e la Commissione europea, che vede invece la riduzione solo nel 2017. Su queste divergenze si giocherà anche gran parte della partita nei prossimi giorni. Non è un caso che il ministro dell'economia Padovan abbia inviato una lettera alla Commissione in cui illustra la situazione del debito pubblico italiano e spiega che l'Italia debba essere considerata in regola con il patto di stabilità. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.